Il punto di Stefano Folli. La conquista del Senato resta il vero motivo del contendere in questa campagna elettorale. Più risulta difficile per il Partito Democratico garantirsi una maggioranza autosufficiente, più aumentano gli scambi polemici, gli attacchi di Bersani a Monti e le risposte aspre di quest'ultimo. Ora la candidatura di Albertini, non tanto alla regione quanto a un seggio senatoriale, è il vero motivo della frizione. Perché sarà pur vero che Bersani ha messo in conto di governare dopo le elezioni con il partito del Premier, ma a quali condizioni è tutto da vedere. Quanto più il PD sarà lontano dall'autosufficienza a Palazzo Madama e avrà bisogno dei voti decisivi di Monti, tanto più quest'ultimo sarà in grado di condizionare il centrosinistra e di avanzare richieste politiche elevate, che riguardino Palazzo Chigi o il Ministero dell'Economia, si vedrà. Ma le elezioni servono a questo, a determinare i rapporti di forza, e ora stiamo entrando nelle settimane cruciali del confronto fra sinistra e centro.